Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago, weekend che si avvicina, non mi dici niente, va bene, meno sono male. Sono già, guarda, sto già dormendo, è già come se fosse sabato mattina, sono già addormentato. Quindi. Ma senti un po', Kappa, tu hai mai sognato di fare il modello? Ma sei impazzito? Tito, dai. Ma, vedi, anche lui. Vabbè. Lui reagisce, dici delle stupidaggini. Sì, ma io dicevo da bambino, mica adesso. Ma come da bambino? Ma da bambino non si sa neanche chi sono i modelli. Vabbè, ma cosa scusa, dici? Ma non li vedevi in TV gli spot dell'Ovo Maltina, delle merendine, dei giochini, eccetera? Con i bambini che recitavano tutti biondi col caschetto un po' lungo negli anni 70. Sì, comunque no. No, cosa? Non ho mai pensato di fare il modello. No, ma perché l'Ovo Maltina biondo. Ho capito, invece beh, tu biondo pelli col caschetto proprio no. Quando però ero piccolo sì. Sì. Quando ero molto piccolo. Biondo col caschetto, sì. Riccio castano. Vabbè, sì. Comunque adesso invece sembra che un mucchio di famiglie cerchino una fonte di reddito alternativa a quella abituale affittando i propri figli anche piccolissimi alle agenzie di pubblicità. Solo che è un mondo pieno di fregature e delusioni, quindi ho trovato in rete 8 utilissimi consigli per evitarle queste fregature. Vabbè, io continuo a fare come sabato mattina, io dormo. Va bene, perché innanzitutto dai, non conta solo la bellezza, spesso un casting non va a buon fine semplicemente perché cercavano un altro tipo di volto, quindi fatalismo, primo consiglio. Poi bisogna avere un bel book già pronto, pieno di foto fatte bene del vostro bambino, fatte da fotografi professionisti. E gente paga, che cioè sono professionisti, sì, chi li paga? Poi ci arrivo a questo, lasciami andare avanti. Poi ci sono i bambini timidi che davanti a un estraneo magari piangono, bene, quelli non possono fare i modelli. Poi bisogna avere un buon agente. Ma non un agente, sì, ma c'hai la mamma, il papà, che no, l'agente. Se no rimani un dilettante, capito? Quindi viene proprio specificato che se abiti in un borgo remoto in campagna può essere difficile trovare un'agenzia seria vicino a casa. E quindi bisogna abitare in città. Sì, e possibilmente a Milano, dove c'è il grosso di queste cose. Poi non bisogna mai abbattersi, ma insistere, altri book, altre foto, altri appartamenti a Milano, ma capito? Ma chi paga? E poi te lo dico, altra cosa da sapere è che il bambino, se è dotato, imparerà lavorando e dovrà essere pronto per dire a sorridere all'obiettivo anche se ha la morte dentro. Povero bambino, deve adattarsi a queste cose. Poi bisogna avere pazienza, più i genitori dei figli, tanta pazienza. E poi c'è l'ottava cosa che bisogna sapere, che è la più importante, cioè che è meglio non avere figli. Ma modelli? No, tu curo. Ma cosa è tu curo? Sì, tu prêt-à-porter, se mai, che roba di moda, no? È mio. L'ho visto prima io. E io l'ho visto prima del tuo prima. E io prima di prima del tuo prima. E io l'ho visto che non esistevi ancora. E io è la prima cosa che ho mai visto. E io lo vedo ora. E io ti pesto. Facciamo a turno. No, facciamo a botte. Facciamo io di giorno e tu di notte. Facciamo io estate e tu inverno. Facciamo io nel cielo e tu all'inferno. Facciamo a chi fa prima. Facciamo a chi fa rima. Ce lo giochiamo a correre. Ce lo giochiamo a carte. Ce lo giochiamo al tiro della corda. Che cos'è che era mio? E chi si ricorda? E ora, bambini, ricreazione! Oh, che bello il weekend, aspetta, eh? Un momento, weekend. Cosa? No, siamo ancora venerdì, weekend domani, no, dai, la vecchia storia, dai. Vabbè. Dai, bambino però Alberto. Aria di weekend, vabbè. Vedi, anche il bambino Alberto ha tutta l'aria di uno che non so, che va al mare. Ma invece no. No. Invece no. Ho le piscine. Vedi, vabbè, vedi, la piscina sociale, La piscina sociale, mai sentito, cos'è? È un vascone di ghisa del cortile del nostro condominio, no? Un vascone di che? Come un vascone? Tipo di vascone? È un vascone tutto arrugginito, di metallo, no? Che è appoggiato per terra, no? Non è c'è una buca scavata con l'acqua, no? No, una pentola, cos'è? Un grande catino di metallo. Vecchissimo, sembra un residuato bellico, no? Sì. E lì, poi, bisogna salire sul bordo per entrare. Quindi sono degli scalini di cemento? Ma come di cemento? Con il corrimano di alluminio tutto arrugginito. Ma cos'è sta roba che ci stai dicendo? Un'allucinazione che hai avuto. Cioè, ti sei svegliato e hai visto un vascone. Ha sognato, sì. Allora, adesso vi dico una cosa che vi zittisce. Allora, avrete sentito parlare, visto che siete così informati e colti voi, che a Milano il vento sta cambiando. Il vento, sì, forse, il vento sta cambiando. Vabbè, forse si dice così, poi non si sa. È un po' tempo che si parla di questa roba qua. Sì. Allora, uno dei risultati, uno dei primi, è la piscina sociale, come un'istituzione di tutti, che ogni condominio nel cortile sì. deve esserci una piscina sociale. Scusa, ma l'acqua così accomuna tutti i vicini, no? Ma l'acqua ha un ricambio oppure è l'acqua che c'è? Basta. L'acqua è lo scarico delle lavatrici. Così. L'acqua. Allora, sì. siccome è tutto in comune, sì. e non si spreca niente, ma è questo il vento che cambia. Ah, beh, certo. No, perché la piscina che è una cosa. Le energie rinnovabili. Usiamo l'acqua e la sprechiamo. No, per fare sguazzare i bambini che si divertono con i palloncini. Invece no. No? Allora, ricicliamo, perché la parola d'ordine è si ricicla. Giusto. Quindi, le acque bianche, però almeno. Sì, beh, certo. Non l'acqua della lavatrice. Beh, quelle sono abbastanza. Quelli hanno un po' di detersivo. E così si fa amicizia in piscina, cioè, questa è l'idea. Sì, quello è il progetto. Per adesso, visto che siamo nella fase pre, si litiga tutto il giorno. Come si litiga? E per cosa? Ma per un sacco di cose, tipo... Attenzione, signor Pisteri, qui sto mutando io. Ah, beh, sì, tipiche cose condominiali, certo. insomma. Signora Fistari, no, non mi spruzzi, sta ferma con la paperella, no? Vabbè, se no, poi faccio su un casino che è al prossimo riunione di condominio, spacco tutto. Ma Pisteri, Fistari... Questo qui... Ma è una tristezza, sta roba, cos'è? Ma cosa una tristezza? Il pentolone. Ma perché, dai? Ma è la piscina sociale, ma è una vasca sbattuta in un cortile, bravo. Sì, però... Sembra le cronache del dopobomba. Ma no, ma scusa, è il vento... È il vento nuovo che soffia su Milano, sei contento? È l'acqua sporca. Posso dire una cosa? Sì. Che la pensa anche il signor Fortini? Cos'è? Che è quello che se la prende con tutti i piscini. Che sta piscina sociale è una boiata pazzesca. Vedi, c'ha ragione, ma lo ma penso sì, anch'io. Bravo. Tu stai a sentire quello che dice un bambino dell'asilo. Invece cerca di andare un po' oltre, no? Ma cosa? Oltre cosa? Cerca di vedere la piscina come motore della socializzazione più importante, che è la socializzazione tra vicini di casa. Io lo trovo bellissimo. Una cosa sì, ma non funziona. Sì, anche perché si rischia di annegare, Perché non si tocca, è profondissimo. L'ho fatta per i bambini, perché la piscina, il bordo piscina, è all'altezza del secondo piano. Ho capito. Si va su ascensore puoi fare e poi ci sono lì. Quei due gradini di cemento per entrare dentro. Ma ho capito. E se c'è il secondo piano, quindi non si tocca. Ma c'è anche chi fa il tuffo tipo il balcone. Beh, certo, dal balcone. Quelli del quarto, del quinto. Allora, qualcuno ci prova quando non c'è giro. Perché gira il bidello. È stato assoldato a ore. Il nero, ovviamente. E il vento sta cambiando, no? Allora, gira il bidello, viene lì a fare un po', diciamo, da pseudo bagnino. Che poi alla fine, pur pagato, il nero, è come se non ci fosse. Perché sta sempre la signora... C'è la signora Alicia? Perché abita nello stesso condominio. Al terzo piano. Quindi gira il bidello. Ho capito. Sta a guardare... Lei sta sul balcone per guardare i bambini. Per vedere se Gildo magari non si annega. E parla sempre con Gino il bidello. Ho capito, ma quindi Gino il bagnino... Ha un tipo un ombrellone, la seggiola da bagnino, sta lì con la maglietta. No, ma questa è una cosa frivola, è una vasca industriale, no? È il vento c'è nuovo, un pezzo di Eternit tenuto su con due bastoni arrugginiti. Ecco, Gino Bidello alla 1:30, quando c'è un sole che picchia di brutto e tutto sulla casa, lui che è pagato deve stare lì. Allora sta sotto qualcosa di Eternit. Che non sembra che non sia andato a salutare. No, no, allora, sta lì sotto quando la signora Mizia sta mangiando. Appena la signora Mizia esce, lascia l'Eternit e va da lei. Quindi la piscina è completamente, come dire, abbandonata. Sì. Fuori controllo! E quindi? E quindi i bambini rischiamo di negare, no? Vabbè, ma diciamo che sei il solito disfattista che non te ne va mai bere una. Io fossi in te, mi terrei stretta la mia piscina sociale perché... Sì, se non altro perché magari, guarda, ti scappa un bel bagnetto con la signora Miffia. Magari venisse la signora Miffia! No, io non vedo l'ora, cioè il mio sogno è questo! Non è mai venuto. Io sto qua a ostionarmi anche nelle ore più calde per aspettare che metta fuori il nasino dalla porta. Ma lei era al tramonto, sai, le signore fanno il bagno al tramonto. Perché? Al tramonto? Prova ad andare al tramonto, dice che è 1:30. Allora, sta piscina sociale. Se servisse per socializzare con la signora Mirfia, allora avrebbe un suo senso, no? Anzi, se volete, a proposito della signora Mirfia. No, vabbè, potrei anche. No, il freestyling però. Perché no? Poi, un po' di freestyling, no? Ma va bene, poi è estivo, no? La piscina, ci sta, una canzonetta estiva. C'è già Gildo, c'è già l'attrezzatura pronta. Gildo, tutto acceso. Ma quale attrezzatura? Acceso, schiacciato on. Il power. Ma dai, ma basta con sto teatrino di Gildo, lo sappiamo che sei tu. Facciamo la base a doppia cifra. Ma Gildo non esiste. La base 15, 1-5. La stessa. Vai Gildo. Mifia. Se ti metti in bikini. Vabbè, ma vedi che. E fai il bagno con i bambini. Sì. Poi magari diventa un monochini. Ma e allora se io lì, che viene giù, è 2:15, che mia madre è all'ufficio, e mio padre è al lavoro, e io sono lì. E che si rivedo i monochini. Allora la base! Ed eccoci giunti alla fine di questa ennesima settimana con Cappa e Drago qui dall'asilo di Radio 24. Dobbiamo salutare e ringraziare in questo modo rilassato che ci accompagna il weekend Roberto Scaltritti, Claudia Carusi, Guido Bertolotti, Alberto Caserini e Daniel Plenz. Buon weekend a tutti. Buon a risentirci a lunedì. E scrivete a Chiedo Asilo. Sì, ma c'hai un alito, drago, che c'è da morire.